Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Sono d'accordo che non è che servirà nella sostanza. Sembra un po' una bisserata. È un lavoro, ripeto, di copertura del momento di stallo. E con questo Parlamento non c'è niente. È bloccato perché Grillo non ne vuole sapere. Il PDL vuole soltanto garantirsi di essere in campo. Berlusconi naturalmente spera sempre di avere qualche vantaggio. E il PD ha fatto un po' questo tentativo di buttarsi con Grillo, ma non c'è riuscito e quindi c'è lo stallo, c'è il blocco proprio. Non avere fretta, il patto vale se ci fidiamo l'uno dell'altro. Se c'è uno stallo alla messicana non ci fidiamo. Ma no, ci vuole un'arma puntata su di me perché sia un stallo alla messicana. Tu hai un'arma puntata su di noi, se decidi di sparare siamo morti. Di sopra hanno le granate, se le buttano qui da te tu sei morto. È uno stallo alla messicana e non era questo il patto. Niente fiducia, niente patto. Wilhelm, sei nicht dumm. Denk an Maximilian. Io avevo annunciato ieri che avrei parlato oggi dello stallo alla messicana. La mia poteva sembrare una peregrina ipotesi, accomunare quello che è una situazione chiave, un cliché del cinema di genere, del western soprattutto, in cui tre persone hanno ognuno la pistola o l'arma puntata contro gli altri due e quindi se non si mettono d'accordo o muoiono tutti e tre o rimangono lì in eterno. Quando per il fantomatico scoop della zanzara anche il professor Valerio Nida, giudice, ex giudice della Corte Costituzionale, ci ha confermato che siamo in una situazione di stallo. Siamo in una situazione di stallo in cui ci sono tre contendenti: Beppe Grillo, Luigi Bersani e Silvio Berlusconi. E ognuno ha due pistole in mano e ognuno ha due pistole puntate contro l'avversario. La situazione allucinare è esattamente questa. Si guardano negli occhi, fremono con il dito sul grilletto, potrebbero mettersi d'accordo in due e sparare in due contro il terzo, ma il terzo ha due pistole puntate sugli altri due. E se nell'istante in cui si accorge che i due sono messi d'accordo spara anche lui, muoiono comunque tutti e tre. Potrebbero naturalmente pensare ognuno di essere più furbo degli altri e ognuno provare a sparare per primo. Ma chi spara per primo ha comunque due pistole puntate contro di lui. Deve essere velocissimo a freddare gli altri due prima che gli altri due si accorgano che qualcuno sta interrompendo lo stallo e quindi gli sparano e muoiono tutti e tre. Dallo stallo alla messicana non si esce, o perlomeno come si esce dallo stallo alla messicana? Questa mattina vorrei parlarne con esperti di stallo alla messicana, perché di questo stiamo parlando. Probabilmente quello che non riescono a sciorinare i costituzionalisti, i politici, gli osservatori e gli uomini delle istituzioni, lo riusciranno a fare gli esperti di film western. Avete mai avuto l'occasione di trovarvi in uno stallo alla messicana nella vostra vita? Come ne siete usciti? O siete ancora lì, tutti e tre, con le pistole in mano, con le dita intorpidite, guardandovi negli occhi, saggiando i respiri, cercando di capire chi farà il furbo degli altri due? E se nessuno farà il furbo, lo stallo alla messicana può anche durare per tantissimo tempo. Che cazzo fai? Sei impazzito? Joe, stai commettendo un terribile sbaglio, non ti permetterò di farlo. Andiamo, ragazzi! Non bisogna arrivare a questo. Dobbiamo comportarci da veri professionisti. Larry, ascolta. Ci conosciamo da tempo. Abbiamo lavorato parecchio insieme. Non c'è bisogno di fare così. Adesso mettiamo giù le pistole e sistemiamo le cose a parole, ragionando. Joe, se l'ammazzi tu sei il prossimo. Larry, siamo amici. Tu rispetti mio padre e io rispetto te, ma sono pronto a riempirti il cuore di pallottole se non metti giù quella pistola, subito! Porca puttana, Joe. Non costringermi a farlo. Smetti di puntare quella cazzo di pistola contro mio padre! Agaccio! Questo è un esempio di stallo alla messicana finito male. Ci sono due diverse teorie. Io penso che lo stallo alla messicana consista nel avere due armi in mano, ognuno dei contendenti, ognuno puntate sugli altri due. Fabrizio Intonti sostiene questo altro modello, questo schema di stallo alla messicana: A punta B, B punta C, C punta A, ma non tutti contro tutti. Vedremo se andando avanti nella trasmissione qualcuno chiarirà se ci sono due tipi di stallo alla messicana o evidentemente uno di noi ha torto. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Sansonna, esperto di cinema, ci definisce lo stallo alla messicana che è fortemente rappresentato in tutta la filmografia italiana e straniera. Quest'ultimo stallo alla messicana da dove è stato preso. Dal folgorante esordio di Quentin Tarantino, sublime rielaboratore, condensatore di tanta cinematografia di genere in cui sono presenti molti stalli alla messicana, dalla yakuza giapponese allo spaghetti western. Lui qui nel 92 con Reservoir Dogs, meglio conosciuto in Italia come Le Iene, ci propone la scena finale, che appunto lo stallo alla messicana è sempre una metafora rovente che condensa il senso profondo del film, in specie in questi action movie. Qui c'è Chris Penn che punta il suo pistolone, la sua tuta acetata, lo punta contro Harvey Keitel, che a sua volta lo punta contro il padre di Chris Penn, perché appunto c'è si dubita sul fatto che ci sia un infiltrato, che in effetti è Tim Roth che sta agonizzando. Quindi il padre di Chris Penn punta la sua pistola su Tim Roth agonizzante. L'equilibrio di forze appunto è precarissimo e sta per esplodere, e porterà all'ecatombe senechiana finale in un bagno di sangue da cui sbucherà solo Steve Buscemi. Ecco, invece nella nostra copertina poi risentiremo il punto cruciale. Abbiamo un'altra spiegazione di Stallo alla messicana ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, lì c'era il Brad Pitt che appunto propone questa situazione in cui c'è il nazista che sta tenendo sotto tiro, dopo che c'è stata questa ecatombe anche lì già nel locale, tiene sotto tiro la spia doppio giochista tedesca, e lì la pressione dall'alto è quella delle bombe degli uomini di Reina, del tenente Reina, insomma di Brad Pitt. Quindi è l'importante che ci sia l'oscillazione, che ci sia un equilibrio precario che può esplodere da un momento all'altro, che è talmente equilibrato che crea una stasi, la risultante fisica, proprio come un teorema fisico, è zero, e quindi può solo attraverso la morte se ne può uscire. 800 24 00 24, siete convinti che ci troviamo istituzionalmente in uno stallo alla messicana? Chi sparerà per primo secondo voi? O staranno tutti lì fermi con le armi in mano a guatarsi, aspettando che qualcuno faccia la prima mossa? O arriverà qualcuno, gli toglierà le pistole in mano e dirà: ragazzi, basta giocare, o vi sparate o vi ammazzate, o esce uno vivo o vi ammazzate tutti e tre e si ricomincia da capo. 800 24 00 24. Stefano Gardi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Stefano Gardi, buongiorno. È il nostro primo esperto, un appassionato di armi del Far West, fa parte dell'associazione Old West Shooting Society, che è un'associazione in cui gli aderenti, i membri, si vestono esattamente come ai tempi del vecchio West, con pistole, Winchester, vestiti tutti, e ricostruiscono delle situazioni del tempo. Vi sareste posti mai voi nella vostra società del vecchio West il problema delle dinamiche dello stallo alla messicana? No, questo tipo di dinamica non è previsto nei nostri stage di gara, però sicuramente... E voi cosa fate? Invece cosa fate? Sparate semplicemente? Diciamo, spariamo su delle sagome di metallo, praticamente basta colpire la sagoma per ottenere, diciamo, il punteggio. E sparate con armi naturalmente d'epoca, quindi... Repliche di armi d'epoca, perché chiaramente quelle d'epoca sono degli oggetti da collezione, per cui abbiamo delle repliche. Quindi mi scusi, se sono incalzante, Gardi, nel classico stallo alla messicana, il film western, che armi vengono usate? Nel film Il buono, il brutto e il cattivo vengono usate delle armi, dei revolver, in particolar modo vengono usati dei revolver Colt 1851, mentre l'aveva Tuco Ramirez il brutto, mentre l'Ivan Cliff, che era il cattivo, aveva una Remington 1858, e il buono di Clint Eastwood aveva una conversione della Colt 1851 a retrocarica. Quindi sono tutte armi ad azione semplice, non sbaglio, quindi... Sono tutte armi ad azione singola, però c'è un... però, nel senso che nel famoso stallo alla messicana di Sergio Leone, nel film Il buono, il brutto e il cattivo, uno dei contendenti sapeva perfettamente che uno degli altri, esattamente il brutto, aveva la pistola a scarica, quindi aveva un vantaggio sugli altri. Ecco, adesso lei ha detto una cosa molto interessante, mi scusi, ma io devo decodificare gli ascoltori. Innanzitutto, quando armi ad azione singola significa che bisogna armare il cane prima di sparare, quindi non è a doppia azione, che basta pigiare il grilletto. E questo comporta un'azione in più per riuscire a sparare contro l'avversario. Uno dei tre del triello, anzi, di cui stiamo parlando, addirittura una arma più antiquata, davanti carica. In particolare, uno degli elementi chiave dello stallo alla messicana è che uno dei tre contendenti possa avere l'arma scarica o inefficiente. Naturalmente entriamo nell'ambito del bluff, lo immagini, lo sai, se poi invece carica... È esattamente questo. In questo caso Clint Eastwood aveva scaricato l'arma del Brute e quindi sapeva perfettamente di avere un vantaggio nei confronti di altri. Però in questo caso, secondo me, non era un vero e proprio stallo alla messicana, era un duello, infatti viene chiamato il triello, dove i contendenti dovevano sparare a un determinato momento, cioè che era scandito dall'orologio del... Di uno dei tre. Clint Eastwood. Fermiamoci un attimo, sentiamolo il triello. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e ti scava. Tu scavi. Dove? Sconosciuto. Ma questo è senza nome. Carson aveva detto solo... La tomba senza nome vicino a quella di Stella. A Giuseppe Sansonna, illustriamo questa forma di stallo alla messicana di questo film. Dunque, c'è una sorta di palcoscenico ricavato dagli scenografi a Burgos, nel Buono, il Brutto e il Cattivo di Leone, in mezzo alla miriade di croci di questo cimitero simulato, e quindi c'è la condensazione della scena finale. Appunto, Clint Eastwood ha tolto i proiettili a Eli Wallach, detto il Brutto, con cui ha un rapporto di complicità, perché in realtà vuole fare fuori solo il cattivo, e quindi è lui il regista occulto di questo finto triello che in realtà si svelerà essere un duello, proprio per salvarlo, perché in fondo anche se sono due cialtroni, sono due delinquenti, c'è una sorta di sintonia, ecco, fra i due. Ecco, questa tua lettura può essere applicata al quadro politico istituzionale attuale. Ammettiamo per assurdo che lo schema sia questo, sì, che ci fosse in realtà un patto segreto o il tentativo di un patto segreto fra i tre contendenti. Tanto Grillo come Eli Wallach ha il suo perché, cioè potrebbe avere questo anche come physique du, io parlo sempre di fisionomiche, perché io credo solo in Lombroso, come sai, è l'unico, certo, mio faro, come anche te penso. Assolutamente. Quindi Grillo come Brutto, come Eli Wallach, funziona anche come esasperazione picaresca, come e quindi in questo caso come andrebbe a finire se fosse così? Finirebbe che Berlusconi rotolerebbe nella buca finale, nella tomba finale, come l'Ivan Cliff, come l'Aquilesco, che però aveva uno stile, a parte che era di carne vera l'Ivan Cliff, ma comunque in ogni caso rotolerebbe così, finirebbe in buca. Noi diamo delle indicazioni paradossali seguendo come nostro algoritmo di riferimento, quello dello stallo alla messicana. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, allora... Prima cosa, no, dai, Berlusconi come Ivan Cliff, no, è troppo. Era ma troppo noi facciamo bravo, delle ipotesi, lì. Dobbiamo dare dei ruoli, sì, naturalmente. No, effettivamente come ruolo va bene, è che accostare un gigante come Ivan Cliff, va bene. Beh, non faccio valutazioni politiche, noi stiamo parlando di stallo alla messicana. La fisionomica, solo la messicana. Ecco, il più bello stallo alla messicana cinematografico che abbia mai visto è in Matrix, in uno degli episodi seguenti della saga, dove non sono solo tre persone, ma veramente sono coinvolte molte più persone con armi incrociate, e questo mi sembra molto di più simile alla politica... E come va a finire? Lo descriva, ci allunga questo elemento. Beh, va a finire che nel momento in cui decidono di disarmarsi, cioè comincia il primo movimento per disarmarsi, grazie alla conoscenza eccezionale delle arti marziali, la situazione si ribalta poi completamente a favore dei buoni. Questo è eccezionale. È la molteplicità dei soggetti che me la fa sembrare molto più simile alla situazione politica attuale. Non sono solo i tre, non è uno stallo alla messicana tre, ma uno stallo alla messicana in cui il nostro ci sono un sacco di componenti che vanno dalle forze politiche, dal Presidente della Repubblica, dal buon Cruciani, che lo vedo come un attore fondamentale anche nel nostro stallo, che si diverte. Lei vede uno stallo alla messicana ampliato con degli elementi, più complessi, molto più imprevedibile, molto più. Sentiamo Antonio, allora. Antonio, buongiorno dottor Gianluca. Sì. Beh, io vabbè, sono appassionato di film western eccetera, però tra il bounty killer che lo fa per professione o altrimenti il cattivo tipo Beppe Grillo, ci può essere sempre un sicario, e quindi se tre sicari si mettono d'accordo eliminano i tre, il bello, il brutto e il cattivo. Va bene, fa troppo complicato. L'ultimo diventa la democrazia. Sì, ma lei sta... No, sì, però ci sono degli... Il bello, il brutto e il cattivo, stiamo vaneggiando. Non si può forzare l'elemento chiave dello stallo alla messicana. Lei deve vedere tre persone con tre pistole puntate, o sei, a secondo sì, del punto. Dottore, volevo uscire un attimo fuori tema, nel senso... Però se lei risolve la chiave dello stallo alla messicana in maniera così semplice, arrivano altri tre e fanno fuori tutti, diventa il... lo stallo messicano a 6 non va. Invece noi, per avere una più precisa cognizione, soprattutto dal punto di vista etimologico, perché si chiami stallo alla messicana, ci colleghiamo con il Messico. Maria Castaneda, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Maria Castaneda, l'antica gruppi messicana, si trova a Toluca, buongiorno. Cioè buongiorno. Per te sono le 2 di notte, quindi ti abbiamo svegliato nel tuo candido lettuccio. Sì, veramente sì, vi sto ascoltando volentieri. Sei ancora un po' assonnata, sento. Però, abbastanza. Ti sei documentata, perché si chiami stallo alla messicana? Guarda, mi sono documentata e alla fine non sono riuscita a trovare il perché si chiama la messicana. Sembra che c'è qualcosa del secolo XIX, quando c'è stata la guerra contro gli Stati Uniti, quando il Texas ha dichiarato la sua indipendenza, ma il Messico non lo riconosceva, quindi nessuno dei due, né uno poteva essere indipendente, né l'altro lasciava che il Texas fosse indipendente. Alla fine si sono messi d'accordo, vabbè. Però noi in Messico il termine proprio, il Mexican standoff, non lo conosciamo, perché non siamo riusciti a trovare... Quindi se lo sono inventati i cinematografari italiani, che facevano questa sorta di western girato nelle montagne della Tolfa, che per essere più casareccio era una sorta di Tex-Mex, come il cibo che si mangia nelle grandi catene di distribuzione Tex-Mex. Quindi ce lo siamo inventato noi. In Messico nessuno sa cosa sia lo stallo alla messicana. No, veramente no, e alla fine quello che mi fa ridere, sai cos'è? Che siamo arrivati alla conclusione, io e i miei amici, che noi politicamente viviamo sempre una specie di stallo alla messicana, perché vedendo questa cosa del buono, il brutto e il cattivo, eccetera, eccetera, abbiamo capito che noi, avendo tre forze politiche qua, esattamente la stessa cosa. Ma quindi in Messico vivete in uno stallo costante alla messicana, forse sì. Per questo? Sì, veramente sì. Cioè, io ho trovato anche che è una specie di gringada, capisci? Un termine coniato negli Stati Uniti, dove ovviamente non siamo ben visti noi messicani, i nostri vicini non è che ci vogliono molto bene, e questo stallo alla messicana si chiama alla messicana perché è una situazione inconclusiva, come siamo noi. Quindi come i californiani guardano i messicani, questo è uno stallo alla messicana, è un atto un po' di spocchia chiamarlo così. Ma sì, perché c'entra con una cosa improduttiva che non arriva da nessuna parte. Con l'inerzia. Come dal punto di vista loro siamo noi. Come noi italiani dicessimo in maniera oscenamente razzista, ma questa è una cosa da napoletani, capito? Una cosa del genere, per farci capire. Infatti sì, infatti non è che senza essere neanch'io così, dicono che noi messicani siamo un po' napoletani, è vero questo. Ma figura, beh, tu sei un po' addormentata, ma sono le 2 di notte in questo momento, lo trovo. No, è vero. Quindi allora, Giuseppe Sanzonna, proprio in conclusione, quello che ci dice la acutissima osservatrice della realtà italiana e messicana, che è Maria Castaneda da Toluca, svegliata nel suo lettino, lo stallo alla messicana è una cialtronata inventata dal paradossale fantasmatico West immaginario pensato da uomini italiani, e per paradosso, per nemesi terrificante, oggi ritorna sull'Italia qualcosa che l'Italia stessa ha inventato. Lo stallo alla messicana è un meccanismo fittizio e anche lievemente discriminatorio nei confronti dei poveri messicani, che adesso noi, che abbiamo inventato lo stallo alla messicana, moriremo di stallo alla messicana. A tra un istante, grazie Maria Castaneda, buon sonno. Grazie. Melog, la realtà condivisa. Non avere fretta, il patto vale se ci fidiamo l'uno dell'altro. Se c'è uno stallo alla messicana non ci fidiamo. Ma no, ci vuole un'arma puntata su di me perché sia un stallo alla messicana. Tu hai un'arma puntata su di noi, se decidi di sparare siamo morti. Di sopra hanno le granate, se le buttano qui da te tu sei morto. È uno stallo alla messicana e non era questo il patto. Niente fiducia, niente patto. Wilhelm, sei nicht dumm. Maximilian. Niente fiducia e niente patto. esattamente lo stallo alla messicana, esattamente quello che sta accadendo in questo momento, nel momento di stallo istituzionale del nostro paese. È uno stallo alla messicana. Nessuno lo dice, nessuno l'ha mai detto, ci giriamo intorno, si sono inventati l'idea dei saggi che sono, si sono autosmentiti con il fantomatico scoop della Zanzara. Valerio Nida, giudice di corte, ex giudice di corte costituzionale, ha detto siamo in uno stallo. Non ha detto stallo alla messicana, perché non può dirlo un ex giudice di corte costituzionale, ma alludeva allo stallo alla messicana. Noi stiamo definendo il modello di stallo alla messicana per dare delle istituzioni, per fare un programma di servizio. Se ci ascolterà qualcuno, capirà che siamo in uno stallo alla messicana, capirà che in realtà hanno tutti l'arma puntata contro tutti, e se non ci si mette d'accordo finisce come in tanti film che mi stanno citando, in cui i tre contendenti del triello muoiono tutti e tre, o si salvano se due sono più furbi di quello, ma devono essere anche più veloci. Mi viene suggerita anche un'altra formula di uscita, viene da un film, Equilibrium, che è un film del 2002 di Kurt Wimmer, parla di una società immaginaria, una società, una dittatura in cui l'umanità, dopo le guerre, distrutta, finita, decide che l'emozione va uccisa, va tolta. Quindi viene cancellato tutto ciò che emoziona. Viene data una droga obbligatoria, tutti devono prendere questa droga, che è una droga che annulla ogni emozione. Naturalmente non ci sono più film, non ci sono più libri, non c'è più fantasia. Tutto ciò che emoziona viene messo al bando, viene distrutto. E il controllo anti-emozionale, guarda, sembra la situazione di adesso. Adesso l'emozione sembra messa al bando. Nessuno si può più emozionare, anzi è peccato emozionarsi, bisogna fustigarsi, bisogna essere quasi appartenere a una classe austera e sacerdotale. Infatti in questo film il controllo antiemozione viene tenuto da una classe sacerdotale, i cosiddetti chierici. E qual era la maniera che hanno questi chierici, questa specie di sacerdoti, per mantenere l'ordine antiemozionale? Erano possessori del segreto del katà della pistola. Da soli riuscivano con due pistole a uccidere anche 30 persone, altro che stallo alla messicana. Il chierico sapeva il katà della pistola, riusciva attraverso un esercizio fantomatico con due pistole a sconfiggere 30 persone. Quindi soltanto in una società del futuro in cui non c'è l'emozione si uscirà dallo stallo alla messicana. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare come esempio il film Nemico Pubblico, di un film recente, non è un western, dove... dove Will Smith praticamente racconta delle frottole su un oggetto che cercano i due contendenti, si ritrovano alla fine in uno stallo, non so se è proprio uno stallo alla messicana, comunque si ritrovano i due con tante persone di una fazione contro tante di quell'altra, alla ricerca di questa cosa che è una frottola che ha raccontato Will Smith. Alla fine finisce che si ammazzano tutti per una fandonia. Quindi è un esito, diciamo, nefasto di stallo alla messicana. Stefano. Buongiorno, io volevo fare un altro parallelismo. Cioè, parlando dello stallo messicana, ho pensato a quello che è stato forse il più grande stallo della storia. Però lei è d'accordo che ci troviamo in questo momento istituzionalmente in uno stallo alla messicana? Esatto, però io ho pensato a quello che era il più grande stallo della storia, che era la Guerra Fredda, e ho pensato immediatamente però al film Dottor Salvo Amore di Stanley Kubrick, proprio perché per la portata dei personaggi probabilmente Peter Sellers avrebbe dato corpo a un Berlusconi, un Bersani assolutamente credibili, e poi per il fatto che è proprio basato sullo scontro di queste due potenze che sono in stallo messicano. Eh sì, però due la catastrofe, ma chi è il terzo? Il meccanismo che in moto e che non sanno fermare. Ma chi è il terzo? Guardi, lo stallo alla messicana è un meccanismo geometrico, se no semplicemente è un faccia a faccia. Questo terzo elemento è questo, nel film è questo meccanismo praticamente che sfugge al controllo degli umani e scatena la guerra nucleare al minimo segno di inizio delle ostilità. Vediamo un altro esempio. Il meccanismo sarebbe sarebbe questa legge elettorale che ha prodotto il fenomeno Grillo che Bersani e Berlusconi non sanno contrastare. Eh sì, però si è ad armi pari nello stallo alla messicana. Ognuno tiene in mano la vita degli altri, l'esistenza degli altri e la capacità di uscirne, la possibilità di uscirne degli altri. Sta zitta! Su, Yolanda, non ti distrarre, piccola! Non glieli sto regalando, Vincent. Compro qualcosa con i miei soldi. Vuoi sapere che cosa sto comprando, Ringo? Cosa? La tua vita. Ti sto dando dei soldi perché non mi va di farti saltare il culo. Tu la leggi la Bibbia? No, di regola no. Beh, c'è un passo che conosco a memoria. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che... Naturalmente passo inesistente, questo... No, no, esiste, esiste. Sì, ma non è in questi termini. No, no, secondo le traduzioni, no, vabbè, comunque... In questo caso dove siamo e qual è lo stallo alla messicana? Qui siamo nel fast food finale, nel teatro della scena di condensazione di senso di Pulp Fiction, in cui Samuel Jackson, in realtà, pur potendo polverizzare il cervello di Tim Roth, che ha davanti a Amanda Plummer, in realtà gli dà una chance di vivere questo momento di stasi, di equilibrio con lui, mentre John Travolta tiene sotto tiro Amanda Plummer, che a sua volta tiene sotto tiro Samuel Jackson, perché in realtà fa una parabola, vuole, in realtà vuole uscire dal suo personaggio, vuole convertirsi, vuole smettere di essere un sicario, e quindi compie questa buona azione per... di smettere questi panni che Tarantino gli ha collocato addosso. E il Tarantino parabolico, il Tarantino quasi biblico di un mondo appunto molto pop, di finzione, che lui sta ricreando con il suo sublime secondo film, quando era ancora immerso nella rielaborazione del suo immaginario, mentre in Bastardi senza gloria era nel gioco di riscrittura postmoderna della storia. La storia l'ha rivissuta come gioco, perché ormai non la si può rivivere solo come farsa o come gioco. Luca Barbieri, buongiorno. Buongiorno a lei. Un altro appassionato di western collabora con il sito farwest.it, ha scritto il libro Storia dei pistoleri, Odoia Edizioni. Vediamo se riesce a darci qualche altro elemento sullo stallo alla messicana. Abbiamo sempre in collegamento dal Messico una nostra esperta di vita, cultura e civiltà messicana, che è Maria Castaneda. Maria, sei ancora lì? Sei sveglia? Sì, sono svegliissima. Maria, solo una cosa, ma perché tu sei tornata in Messico? Ti ho lasciata che avevi un take away di cibo messicano a Novara. Manco un anno fa, adesso sei in Messico. Che è successo? Beh, è successo che ho capito che la situazione in Italia non andava più bene e chiaramente uno va dove sta meglio. In questo momento si sta un po' meglio in Messico, nonostante violenze e tutto il resto, diciamo che si sta meglio. Cioè tu eri venuta in Italia a cercare fortuna, ti sei anche sposata, hai ripreso il marito novarese e ti sei riportato in Messico. Sì, in realtà non è che sono andata a cercare fortuna, però... Beh, dai. Però sì, mi sono rimasta lì, e proprio perché mi sono sposata, ed effettivamente dopo 9 anni ho capito che se ne stava meglio fuori dall'Italia. Era uno stallo alla novarese, diciamo, il tuo. Sì, un po' così. Resta lì, Luca Barbieri, vediamo di capire qualcosa di più sullo stallo alla messicana. Ah, diciamo subito che lo stallo alla messicana è la traduzione del termine inglese Mexican standoff, e sostanzialmente indica una situazione nella quale più persone, però solitamente 3, possono essere anche di più però, si tengono contemporaneamente sotto tiro a vicenda con le loro armi. Diciamo che è una situazione di stallo perché ognuno al tempo stesso è sia aggressore che aggredito, nel senso che non può sparare uno dei suoi avversari senza essere poi colpito a sua volta. Quindi diciamo che il punto saliente, il punto principale del Mexican standoff è la paura di fare la prima mossa. Nessuno vuole fare la prima mossa e dunque la situazione rimane, diciamo, congelata potenzialmente all'infinito. Ma può esserci un accordo nello stallo alla messicana fra 3 contendenti? Lo dico sempre perché lo riferisco alla situazione politica italiana. Certo, assolutamente sì, è stato citato prima da voi quello di Samuel L. Jackson, cioè una situazione nella quale ognuno tiene la pistola puntata sull'altro e la vita di ognuno è, diciamo, appesa a un filo. L'unica possibilità è che ci sia un reciproco accordo tra le parti, diciamo, totale e simultaneo, però tutti devono abbassare contemporaneamente le armi, fidandosi l'uno dell'altro. E se uno è più paraculo degli altri e non la abbassa e spara? Inizia la carneficina, nel senso che tutti gli esempi di stallo messicana, che poi alla fine ovviamente non possono stare in stallo per sempre, ma devono trovare una soluzione. Eh sì, perché poi si indolenziscono le mani alla forza di star lì pronti. Alla fine... Sì, alla fine se uno preme il grilletto, poi contemporaneamente lo premono tutti. Basta pensare sempre a un altro film di Tarantino, che è un po' maniaco, diciamo, del Mexican standoff, che è Le Iene. Il finale delle Iene è tragico, dove tutti hanno la pistola puntata su di loro, la tensione cresce, alla fine poi si sparano tutti e il finale ovviamente è tragico. Quindi, mentre invece in un altro film di Tarantino, che è appunto Pulp Fiction, diciamo, viene trovata un'altra soluzione, che è quella, diciamo, pacifica, di trovare un accordo. Però è fondamentale l'intervento da parte di un leader. Oh, ecco, cosa manca? Allora, nello stallo alla messicana, da soli 3 difficilmente ne escono. Se qualcuno dei 3 o diventa leader o si prende l'incarico di guidare gli altri 2 e di dare fiducia agli altri 2, che non sarà lui a sparare sugli altri se abbassano le armi, o qualcuno da fuori cerca di fargli abbassare le armi. Esiste una situazione chiave in cui magari, non so, esce una fanciulla con un bambino in mano, tuo figlio, e tutti abbassano le armi, no? Non c'è niente. Sì, del... Potrebbe anche succedere, ma diciamo che è molto più probabile che un leader come Samuel L. Jackson, sempre tenendo la pistola puntata e sempre mantenendo il dito sul grilletto, dica agli altri: ok ragazzi, la situazione è questa, vi voglio lasciare andare, abbassiamo tutte le armi contemporaneamente. Però qualcuno deve dimostrare di aver più palle degli altri due, se no non ci riesce. Uno deve dimostrare di aver più palle degli altri due, e un'altra cosa deve fare un sacrificio. È durissima. Per esempio, sacrifica i suoi soldi. Giuseppe Sanzon, i soldi che ha nel portafoglio glieli dà. Lo stallo messicano più bello che abbia mai visto, l'ho letto in realtà, una storia di Andrea Pazienza, sublime, di due killer in questo deserto metafisico, ciascuno dietro una roccia, e il terzo contendente è la scuola che tutte e due hanno fatto di killeraggio, però non sanno che sono tutte e due e che possono appazientare in eterno, e quindi stanno ad aspettarsi sospesi nel nulla, e veramente nessuno farà la prima mossa. Questa era una delle chicche di Pazienza. Melog, la realtà condivisa. Hai visto, Corbett? Non è finita la caccia! Buttala quella pistola! A questa distanza, il cacciatore sono io! Situazione cruenta, parliamo di stallo alla messicana. Dallo stallo alla messicana raramente si esce vivi, si esce più facilmente tutti e tre morti. È la situazione in cui ognuno ha la pistola puntata verso l'altro. E noi abbiamo cercato questa metafora per rappresentare l'attuale stallo nella situazione politica e istituzionale. Lo facciamo tragicamente nello stesso studio ancora lordato del sangue innocente di Cruciani Parenzo, versato ieri per mano di Pannella. Ne erano stallo alla messicana, perché loro sono rimasti, i pacifisti sono stati i due colleghi, e Pannella è stato quello che ha sparato. Ha scempiato lo studio, siamo ricoperti di sangue, ancora c'è le croste coagulate del sangue di Parenzo su questo microfono, le stimmate, su cui sto parlando io, sì, ne faremo una sindone e ne faremo un'ostensione. Allora, Giuseppe Sanzonna, quest'ultimo stallo alla messicana, dove qui c'è il nesso politico è molto forte, perché il western, che tra l'altro è uno dei preferiti di Quentin Tarantino, è La resa dei conti del 67 di Sergio Solli, ma è uno dei western terzomondisti in cui la metafora politica diventa molto forte. Cuciglio, il peone interpretato da Thomas Milian, si muove solo, cioè la sua arma è il coltello, un'arma sottoproletaria, un'arma appunto non sofisticata, non ricca. Il ricco possidente cattivo manda sulle sue orme l'Ivan Cliff per ucciderlo, per terminarlo a causa di un'accusa ingiusta, quindi c'è l'ingiustizia. Dietro il triello finale, dietro l'equilibrio, appunto lo stallo alla messicana, ci sono delle istanze politiche. Quindi allora riportalo alla situazione attuale. In questo caso come definiresti una possibile uscita dallo stallo istituzionale? Portando questo modello come esempio, ad esempio. Qui appunto all'arma bianca, sostanzialmente l'arma bianca diventa di Cuciglio, qui diventa decisiva, però non so chi incarni fino in fondo l'eroe scanzonato e sottoproletario di Milian in questo caso, non riesco a vedere dei referenti in questo triello. Quindi abbiamo capito che in realtà si esce dallo stallo alla messicana, che apparentemente sono tre persone equivalenti, che hanno lo stesso peso nel circolo sacro del triello, se uno dei tre dimostra delle qualità superiori agli altri, o è un leader e convince gli altri due, o ha delle capacità di uscita dalla regola totale, è talmente estroverso e fuori dalle regole che prende il predominio. L'accordo è fondamentale, qui alla fine Milian e Ivan Cliff si accordano, quindi rinuncia al suo incarico Ivan Cliff e finisce il triello. Michele, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho avuto un'illuminazione dalla vostra puntata. Mi fa piacere. Il triello ideale, che poi secondo me è quello di Sergio Leone, non vede tanto Bersani nel ruolo del buono di Clint Eastwood, quanto dell'ufficiale dell'esercito che poi muore nell'attesa di vedere esplodere un ponte, che fanno esplodere gli altri due per arrivare ai soldi. E in attesa che si arrivi a quello sviluppo, il vero Clint Eastwood sarà Renzi. Quindi lei già fa una previsione di esito possibile futuro di questo triello. Quindi Bersani come Carlo Giuffrè e Renzi come Clint Eastwood, che io comunque vedo più vicino a Pozzi di Happy Days o un personaggio comprimario di Pieraccione. Sì, ma non ti fermare l'aspetto esteriore, è limitativo. Azione omica è fondamentale. Sì, però. Ma in questo caso è un modello matematico. E il nostro ascoltatore, molto intelligentemente, ci ha fornito una soluzione. È la mossa segreta che non capivamo, semplicemente cambiando un ruolo. Quindi noi vediamo il triello in questo momento limitati a una situazione statica, ma se noi lo mettiamo nella dinamica della trama di un film potrebbe esserci una soluzione. Che secondo me il discorso è che adesso siamo in una fase dove ci sono ancora moltissimi scagnozzi da eliminare. Quando si saranno eliminati i vari scagnozzi? Ma chi li elimina? Perché i tre mi sembrano abbastanza concentrati a salvare la pelle e evitare che l'altro faccia la prima mossa. Ma Bersani non è il protagonista, Bersani è ancora uno scagnozzo, bisogna arrivare ancora al triello, secondo me. Ah, secondo lei ancora no? Sono ancora le fasi in cui la pistola è nel fodero e devono tirarla fuori, quindi siamo andati avanti oltre la realtà. Siamo nel prologo di uno stallo alla messicana, perché questo è un suo punto di vista. Alberto, buongiorno. Io volevo rifarmi a un discorso un po' più vecchio, un po' più antico. Io parlerei di una sorta di triunvirato al quale al momento non abbiamo, diciamo così, una divisione dei poteri, ma che probabilmente forse in un futuro potremmo avere. Il primo triunvirato, Cesare Crasso Pompeo, venne, diciamo così, annientato, distrutto, sconvolto quando morì Crasso. Il secondo triunvirato, Lepido, Ottaviano e Marco Antonio, venne sconvolto quando morì Lepido. Mica possiamo aspettare la provvidenza che uno dei tre muoia. Infatti uno dei tre sicuramente ben presto, in una maniera o nell'altra, a livello politico. Sì, da qui a 100 anni sicuramente, ma non è che accade. No, molto presto, uno dei tre soccomberà. Stanno lì tutti con le mani a ravanarsi le parti basse se l'ascoltano, però. Sì, però anche questa è la soluzione, lei ha ragione. Dobbiamo considerare un elemento imprescindibile della provvidenza che improvvisamente uno dei tre muore e quindi si risolve. No, ma non tanto che muore, diciamo così, a livello sì, politico. Sì, lavoriamo per metafora. Non muore a nessuno, no. Che a livello politico entro 15-20 giorni qualcuno... Ancora, un altro mese passa. Guardi, che quando c'è l'elezione del Presidente della Repubblica? È una quindicina di giorni. Ecco, aspetti quella data lì, vedrà che dopo quella data lì uno dei tre sarà scomparso, o in una maniera o nell'altra. Quindi è giusto quello che aveva detto Nida, la finta Margherita Hack, stiamo facendo melina, aspettiamo lo stallo fino all'elezione del presidente, quindi diciamo questa sua chiave sembra realistica. Raffaele. Buongiorno intanto a tutta l'Italia, grazie per questa opportunità. Volevo anch'io proporre l'ennesimo stallo alla messicana. Però vede Raffaele, partendo da una situazione apparentemente di cazzeggio, diamo spunto a riflessioni non proprio banali, mi pare. No, anzi, lei è geniale, complimenti, ha fatto questo parallelismo, anche se appunto lo stallo alla messicana lo vediamo nei film, che è qualcosa di più leggero, mentre qua stiamo parlando della nostra vita vera, dei problemi reali. Vada alla sua ipotesi allora. Allora, l'ipotesi, intanto lo stallo alla messicana sarebbe quello dei Pirati dei Caraibi, dove c'è Jack Sparrow, il Capitan Barbossa, poi Orlando Bloom, che non mi ricordo in quel film che il nome dell'attore, e addirittura c'è anche la bellissima Kate, ma vabbè, insomma, alla fine, dato che lei vorrebbe in qualche modo una soluzione, i pirati la trovano, dato che c'è questo stallo alla messicana, dopo il suo amico di Sanson ci aiuterà meglio a capire la situazione. In realtà loro poi si mettono d'accordo, perché per il bene comune, dato che vanno contro la Compagnia delle Indie, trovano assolutamente un accordo. Quindi trovano un nemico comune che permetta loro di fare l'alleanza. Quindi in questo momento manca un nemico comune a tutti e tre. Ognuno è nemico dell'altro, ma non c'è un nemico, metta caso. In questo caso c'è un nemico comune, però in realtà il nemico comune potrebbe essere questa situazione che si è creata negli ultimi anni in Italia. Bisognerebbe semplicemente, banalmente capire che in realtà queste tre persone... Cioè il nemico comune potrebbe essere... Er Popolo coi forconi che va fuori dalla porta e dice vedete una mossa, allora su quello tutti si svegliano, faccio un'ipotesi. Da una parte potremmo metterla così, in realtà invece vorrei dire che il popolo non è il nemico comune, ma è quello per il quale loro sono stati messi lì. Per chi ha la ghigliottina sul filo del collo, certo che è il nemico comune. Gabriela, altra messicana, questa mattina è la mattina delle messicane. Buongiorno. Buenos días Nicoletti. Buenos días. Sì. Bellissima trasmissione. Lei chiama allora, dall'Italia però, dal Messico anche lei? Sì, no, in questo momento sono in Italia. Non avevo una messicana sotto mano, ho chiamato una in Messico. Sono città del Messico, ecco, da un po' di anni abito in Italia. Mi parli del suo stallo allora? Allora, il mio stallo che vedo fra l'Italia e il Messico, diciamo, vedo che qua non si risolverà nulla. Abbiamo bisogno di cambiare la Costituzione e basta, perché qualcuno... Sì, ma mi dà un consiglio alla messicana come uscire dallo stallo alla messicana. Alla messicana cosa succede? Uno va a votare, sa, forse si sbaglia, che quello che vota l'anno è giusto, ma è convinto che lo è al momento. Dopo di 3 anni vede che non fa niente, al quarto anno va a casa e non torna mai più perché non può. Ah, cioè, voi, diciamo, voi messicani siete già premuniti di come evitare lo stallo. Sì, diciamo, ok, ti diamo l'opportunità per 4 anni. 3 anni, cosa hai fatto? Non hai fatto niente? Vai a casa, hai rubato, sei stato un incapace, vai a casa, ma non ti puoi più rappresentare perché non è permesso. E che vede che i messicani, patria dello stallo, hanno trovato la loro maniera perché non si verifichi lo stallo. Noi ancora siamo un passo indietro rispetto allo stallo della messicana. Grazie Gabriele. Antonio. Sì, salve. No, io pensavo che fosse necessario invitare a questa trasmissione anche un professore di matematica. Ma l'avevamo già ieri, non volevamo inflazionare. Perché si tratta di un'equazione a 3 incognite. Lei è un matematico? No, però diciamo così, rimembranze scolastiche, e proprio a scuola, che probabilmente uno ha capito che per affrontare i temi e i problemi della vita bisognava semplificare, come si faceva con un'equazione quando tu portavi avanti queste 3 linee dove ognuna teneva un coefficiente non noto e dovevi portarle avanti finché era opportuno portarle avanti, trovare dei minimi comuni multipli, trovare elidere quelle che erano quelle situazioni che non necessarie e di volta in volta risolvere e definire la prima incognita, poi passare alla seconda, insomma smascherare nel più breve tempo possibile, perché sennò, professore, se tu portavi avanti l'equazione in modo lungo e improduttivo, Antonio, ti metteva 2 e ti mandava a casa. Lei ha ragione, lei pone il problema dal punto di vista del modello matematico, un'equazione a 3 incognite, noi facciamo esattamente la stessa cosa, diamo nomi diversi ai coefficienti, ai numeri e alle equazioni, diciamo ci sono 3 pistole puntate o 6 pistole, chi sparerà per primo, poi il risultato e lo svolgimento dell'esercizio matematico non sta a noi farlo. Abbiamo dato un elemento metaforico di riflessione, chissà se qualcuno lo raccoglierà. Grazie Giuseppe Sanzonna, grazie Chiappini, grazie Intonti, a lunedì.